Devo dire che siamo stati bravi, veloci, ringrazio Mobike perché sono state superate tutte le problematiche che tanti utenti fiorentini avevano segnalato. E ringrazio anche i fiorentini perché abbiamo un primato, siamo la prima città in Italia, tra le prime nel mondo, come dati sul vandalismo, ovvero ogni mese solo una bici ogni 200 viene danneggiata, vandalizzata. Siamo ora a circa 3.250 biciclette a Firenze, possiamo arrivare a 4.000 con Mobike. Eccoci qua, buonasera, bentornate e bentornati su Radio Wombats. E, sei in punta di pedali, scusate la partenza un po' caotica, ma è tanto tempo che non ci troviamo in questa regia. Denver, ancora non ti sento, mi piacerebbe scoprire il perché. Forse adesso ti sento. Ah, eccoci, abbiamo perso un po' l'abitudine a stare alla radio, Eh ragazzi. sì, eh Ci siamo sì, eh sì. arrugginiti, ci siamo Questa è la arrugginiti. verità. Ci siamo arrugginiti, ma siamo qui per rimediare. Sì, belli Ci siamo carichi, come belli potete carichi. sentire dal sottofondo musicale. Ci siamo lasciati prima dell'estate e poi varie avventure rocambolesche, naturalmente, come al solito, ci hanno impedito di essere qui con voi, ma quest'oggi, da quest'oggi si riparte. Abbiamo ospiti, naturalmente, qui proprio accanto a me. Buonasera. Lui non lo sentiamo, Il invece. rider solitario lo Il chiamerei. rider solitario, vorrei sapere perché Speriamo non di si no. sente. Prova a riparlare. Ti sentiamo? Ci sei? No, io non lo sento. Non ci siamo. Allora forse è per questo. Prova adesso. Nemmeno. Vai. E ciao. Buona proprio. Bene, problemi tecnici come sempre ci accompagnano. E ne approfittiamo per ricordare che cos'è Radio Wombat. Allora, Radio Wombat, sono impreparato sulla questione di che cosa sia Radio Wombat al momento. Radio Wombat è la vostra radio di fiducia, questo di sicuro. È un progetto, come sapete, di radio dal basso, organizzata con mezzi vari e fortunati, e l'idea è occupare spazi. Oh, ecco che è arrivato anche il nostro È rider. tornato il nostro rider, non è la prima volta che è qua, è emozionatissimo lo stesso. Buonasera a tutti. Oh, guarda, è rigido proprio, guarda, guarda, è proprio Sì, rigido. sta diventando rosso, voi non lo potete vedere, ma noi sì. Allora, Stardi. ben Che arrivato. soprannome gli diamo? Che Che soprannome diciamo? diamo? Non lo so. Rider 1, Rider L'uomo 2, col Rider saccone. X. Rider, a me ricorda. Rider, va benissimo, il rider Rider. fiorentino. Ok. Allora, i Rider Fiorentini sono sulla cronaca, sono finiti sulla cronaca anche dei grandi giornali e noi li abbiamo seguiti, li seguiremo molto bene nel prossimo futuro e intanto benvenuti a In Punta di Pedali, ne Grazie. approfittiamo per ripresentarci, io sono Briccobaldo, qui davanti c'è Denever, vai Denver. No, non sono un attimo distratto. Ge Si è distratto. gestivo, gestivo le prossime telefonate. Questa è una trasmissione di Radio Wombat. Radio Wombat è una giovane radio fiorentina che naviga nelle onde mediocri sulla frequenza 1359 AM. Abbiamo dei contatti, ci potete contattare, potete visitare il blog wombat.noblogs.org. Potete anche scriverci alla mail posta@wombat-insiberia.net. In punta di pedali si parla di biciclette, ma dalle biciclette si arriva a parlare di tante cose. Denver, Si di cosa guarda il parliamo oggi? mondo. Oggi abbiamo, in questa nostra lunga assenza, si sono, come dire, sono aumentate le notizie, sono successe un po' di cose e c'è da parlare di tante cose. Di sicuro non è un caso che abbiamo qui un rider, perché è successa una cosa molto interessante durante la nostra assenza. È nato il collettivo Riders Union Firenze, quindi parleremo di questo. Parleremo di un po' di notizie avvenute durante... da Firenze, sì. Da Firenze, anche un po' in giro dall'Italia e anche dall'estero, da Prato. Assolutamente. E poi tutto questo in riscaldandoci per il compleanno della Critical Mass, che guarda un po', è proprio stasera, fra esatto, circa un'ora. Vi aspettiamo al compleanno della massa. Verissimo, sentirete anche le voci degli organizzatori, non si può dire di chi, questa coincidenza la sente molto propria. Ma io intanto ne approfitto, smorziamo un attimo la grandissima tensione che si sta creando con un pezzo, My White Bicycle. Bye. Anche le foche bevono Radio Wombat. Tu Torniamo in regia. Avete sentito The White Bicycle dei Nazareth. Ora sul sottofondo abbiamo l'ottavo padiglione con Vitelloni, imperdibile. Saremo anche arrugginiti, ma siamo partiti con bella musica, bella carica. Dai, non vi potete lamentare. Sì, assolutamente non vi potete lamentare. O meglio, lamentatevi, ma fatecelo sapere, scrivetecelo, mandateci a fanculo. Lamentatevi del rider, così lo facciamo diventare rosso. Che già si sta ririgidendo. Allora, eccolo quanto a noi. Abbiamo, non per la prima volta, sono venuti anche a Radio Wombat già un paio di volte, l'ultima in occasione della prima festa dei Riders. Intanto ciao. Ciao a tutti. Io sono uno dei tanti rider di Firenze e da poco... Io inizierei subito con una domanda, no? A occhio, quanti sono i rider a Firenze? Allora, questa è una domanda bella tosta, perché non si può calcolare il numero esatto dei rider, perché per ogni piattaforma ci lavorano un tot di persone, e anche tra quelli che ci conosciamo, quelli anche siamo magari sul gruppo WhatsApp di lavoro, circa per piattaforma siamo un centinaio, però non tutti sono sul gruppo, tanti sono lavorano soli, tanti sono cani sciolti, quindi boh, a occhio e croce io sparerei magari 300, ma sicuramente mi sbaglierò, perché potremmo essere molti di più, molti di più. Da questa risposta, diciamo, si capisce perché è necessario il Riders Union, no? Cioè, chiaro, bisogna fare gruppo, bisogna infatti conoscersi. Il Riders Union Firenze nasce proprio con questo scopo, cioè creare una maggiore aggregazione tra i riders. Questo è un lavoro che porta chi lo svolge un po' all'isolamento, perché semplicemente volutamente, secondo me, no? Magari anche volutamente, cioè magari c'è anche chi per indole ha messo l'app. Chiaro, certo, perché ovviamente grazie a questa tra virgolette disgregazione che c'è tra i rider, le varie piattaforme possono perseguire meglio il loro obiettivo, cioè puntare a fare un maggiore profitto senza adeguate tutele per i lavoratori. Un massimo profitto, sarei dire. Profitto all'insegna del peggiore capitalismo, proprio. Cioè cercano di strizzarvi. Ci strizzano fino al midollo. Fino al dividere midollo. I lavoratori, metterli l'uno contro l'altro, no, in competizione per aumentare il loro profitto. Chiaro. Infatti Roof si propone di combattere proprio questo, cioè la disgregazione tra i riders. Roof non vuole assolutamente la disgregazione o l'isolamento tra i riders, ma bensì vuole l'aggregazione e la solidarietà tra tutti i rider di Firenze e non solo. Grandiosi. Qualcuno mi ha spento il microfono. Sì, è vero, sono sempre io che faccio le prove qua dietro. Aiuto, cerco di capire quale canale siete. Aiuto, entrambi voi. Comunque, facciamo che tocco meno cose possibile. Ma io sono senza microfono. No, ce l'hai il microfono, ce l'hai. Ci sei. Non temere. Noi ti sentiamo. Allora, massimo profitto con massima disgregazione. I problemi sono tanti, la strada è lunga, però voi vi siete rifatti da una parte. Sì. Questo progetto, cioè, è partito veramente dalla volontà di pochissimi individui. E per fortuna già ora stiamo riscontrando sempre maggiore partecipazione. Quindi significa che il lavoro che stiamo facendo è buono. Cioè, già per esempio all'ultima assemblea che abbiamo fatto come RUF, che tra l'altro era la prima vera assemblea ufficiale di RUF, prima già facevamo assemblee ma eravamo un gruppo più ristretto, già a questa assemblea abbiamo visto facce nuove e volti nuovi, il che significa che probabilmente il lavoro che stiamo facendo sta portando i suoi frutti e che stiamo lavorando bene, quindi speriamo di continuare ad andare avanti così. Di strada ce n'è da fare. Di strada ce n'è tanta, sembra un'ottima metafora quella della strada. Precisamente. Conosciamo bene. Visto che ci vivete, ci lavorate sopra, il vostro ce la viviamo in pieno la strada. Assolutamente. Volevo chiedere del mito del bike messenger, quanto arriva a voi? Sai che è un po' su internet, c'è questo quasi moda del bike messenger, che è un figo che va, che sfida le macchine, che sfida la strada. Ma senti, guarda, ti dirò, anche tra di noi c'è qualche invasato che si diverte, cioè, a sprecciare in mezzo alle macchine come se non ci fosse un domani, rischiando di dare sportellate a destra a macchina, sia a macchine, a motorini che a pedoni. Però in realtà la maggior parte, soprattutto per quelli del roof. Però è un po' una guerra, diciamo la verità. Sì, ovviamente c'è, cioè, la strada ha le sue difficoltà, però riferimento a quella moda che c'è a noi, sinceramente, parlo per me ma penso di parlare anche a nome dei miei colleghi, ci frega il giusto, cioè noi, per noi questo è un lavoro, non ce ne frega di fare i fighi per la strada, cioè noi siamo a lavorare. Quindi non attirava, assolutamente non vi ha attirato. No, a me non mi, proprio non mi tocca proprio, se devo essere sincero, io per me questo è un lavoro, fine, c'è poco da fare i fighi, sono a lavorare. Ecco, torniamo a... prima hai nominato l'assemblea, avete fatto la prima assemblea ufficiale, giusto? Sì, abbiamo fatto la prima assemblea ufficiale in Piazza dei Ciompi, che si è tenuta mercoledì scorso, se non erro, ora no, scusate, non mi ricordo la data precisa, e ce ne sarà un'altra, che ci siamo dati come per adesso come appuntamento il mercoledì, soltanto che il prossimo mercoledì cade proprio con Halloween, quindi probabilmente l'assemblea sarà anticipata a martedì 30. Sempre in Piazza di Ciompi? Per adesso sì, sempre in Piazza di Ciompi, finché il tempo ce lo concede, sì. Quindi sì. Per chiarirlo, appunto, in teoria sì. L'assemblea è tutti mercoledì presso Piazza di Ciompi alle ore? Dopo l'orario di lavoro, quindi dopo le 22. Quindi dopo le 22 in modo assolutamente eccezionale, settimana prossima. Il martedì. Sì, penso proprio di sì, sarà di martedì perché cade con Halloween. E vi aspettiamo numerosi, ovviamente. E numerose. E numerose, chiaro. Ma invece tornando all'evento che è appena passato, è stato un po' il vostro esordio, il vostro lancio, la vostra prima festa. Si è svolta presso i locali della Polveriera, come è andata? Ma è andata molto bene, e è stata sì il nostro lancio, la nostra inaugurazione ufficiale come RUF, come Riders Union Firenze. Abbiamo riscontrato, oltre che a una notevole partecipazione a questa festa, ma quello che ha fatto più piacere è notare anche l'appoggio di varie realtà fiorentine che hanno partecipato alla festa, ci hanno sostenuto, ci hanno dato una mano con i lavori, eccetera eccetera, quindi stiamo riscontrando molto appoggio tra varie realtà fiorentine. Poi ovviamente non si può non citare la Polveriera, cioè la Polveriera che ci ha concesso i locali, che ci ha proprio aperto le braccia, e quindi vabbè, ovviamente un grazie speciale va alla Polveriera. Ecco, sì, è uno dei punti di appoggio. Sì, diciamo che è la nostra, diciamo, sede fisica ufficiale, direi, perché sì, la nostra sede, diciamo, fisica ufficiale è la Polveriera, dove tra l'altro stiamo allestendo anche una piccola ciclofficina, e poi di progetti, insomma, in serbo ne abbiamo. Da cosa nasce cosa? Già stiamo pensando magari a recuperare bici, già ne abbiamo, cioè sappiamo dove trovarle, pensavamo a un'asta di biciclette, insomma, di cose in serbo ce ne sono, forse, però per adesso è meglio non citarle troppo, sì. È quasi prematuro. Ah, poi si avvicina l'inverno, fra l'altro. Eh sì, si avvicina l'inverno. L'inverno so schiaffi per Rider. So schiaffi. La tempesta nello storm. Riders on the storm, come cita il nostro slogan. E certo, per l'inverno poi abbiamo ovviamente come punto di appoggio, di ristoro, sempre la Polveriera, e che speriamo di sfruttarla sempre di più e di dare sempre più un senso a questo spazio, che non sia solamente magari uno spazio dove uno viene qui e ripara la bici e se ne va, ma diventi anche proprio un luogo di incontro e soprattutto di confronto. Questo ci auguriamo. Per creare anche una coscienza comune. Chiaro, è quello poi l'obiettivo finale del RUF. Confrontarsi nei punti di vista. Oltre che le rivendicazioni, cioè prima quello per arrivare alle rivendicazioni. Certo. Non so se hai sentito in apertura della puntata c'era una citazione di Nardella che... non ci ho fatto caso, è dell'assessore Bettarini. Nardella era in occasione dell'inaugurazione, della presentazione delle nuove Mobike, quindi delle nuove fantastiche Mobike, oserei dire, più alte, più snelle, più belle, e battono tutti i record secondo loro. Io non ci lavorerei mai. Tra i quali, ecco, ci arriviamo. Intanto eppure, sì, poi... Eppure appunto nota anche che è stato battuto un record notevole, e io lo annuncio con onore perché è veramente un piacere. Nardella, come lui sostiene, Firenze appunto è la prima città anche per atti vandalici sulle biciclette, sulle mobike. Io non ho capito se lo intendesse in senso positivo o in senso negativo. Non lo so, si può leggere in tanti modi. Non si sa esprimere forse neanche in italiano. Cioè, si può leggere veramente in tanti modi. Certo è che ci vuole una gran creatività per, a volte per posizionare le mobile, per riuscire a vendere, diciamo, mettiamola così, e a volte si trovano sugli alberi o sui fondali oppure insomma veramente nelle posizioni più disparate, anche se io ho notato che c'è una tendenza, hanno la tendenza ad accumularsi secondo me nei sottopassi vicino a casa mia, c'è dietro un botto dietro l'angolo nel sottopasso. A me è capitato, ovviamente ero in bici, dietro l'angolo mi sono trovato tre mobike pronte a farmi cadere a terra, e forse perché le nascondono perché sperano che nessuno se le prenda, almeno così le... insomma dicevi te non ci lavoreresti con una mobike? Ovviamente no. Eppure sai, ho visto qualche sì sì, ovviamente che... ovvio, sono casi isolati comunque, magari sono rider che hanno appena iniziato e non hanno una bici e hanno pensato, che ne so, questo anche mese me la costa, faccio con la mobike. Ma costa con la mobike, no? Però io non so bene quali sono le tariffe. Comunque sì, le tariffe sono aumentate sia per le mobike, quelle normali, che per le mobike invece, quelle ponze. Si tratta di almeno 50 centesimi ogni mezz'ora. Sì, che poi tra l'altro vanno pianissimo, e secondo me questa è una cosa che è stata fatta apposta, perché almeno uno ci mette più tempo a raggiungere la sua meta e quindi spende più soldi. Sì, sì, poi... Non so se senti cosa c'è in sottofondo. Mega citazione. Ah, giusto, non lo senti perché non è le cuffie. Prova a mettertela qui. Per rimanere in tema. Secondo voi, appunto, no, questo è un po' il discorso, appunto, il vandalismo e il rispetto del codice è sempre naturalmente bisognerebbe farlo, mettiamola così, ma noi ovviamente... io a volte mi sento legittimato a non rispettarlo, visto che il codice della strada non rispetta me, perché le difficoltà sono tanti, i pericoli sono veramente tanti, e tendenzialmente si cerca di rendere la vita a chi utilizza la bicicletta il più difficile possibile. Ti torna questa cosa? Sì, guarda, quello che sto per dire non è un incentivo a trasgredire il codice stradale, però posso affermare con sicurezza che per svolgere questo lavoro è necessario infrangere il codice stradale. Perché se uno si mettesse a rispettare tutte le regole che ci sono nel codice stradale, arriverebbe a fine giornata e avrebbe guadagnato sì e no un pezzo di pane. Certo, assolutamente, voi dovete lavorare il più possibile per poter portare a casa il più possibile, e questo è il cottimo, è quello che subite. Questo lavoro è un incentivo a infrangere il codice stradale. Esatto, poi tra l'altro insomma l'amministrazione frentina non ecco, c'è tornando al mobike, quindi il caso del mobike è il problema della viabilità a Firenze, cioè nessuno vorrebbe infrangere il codice stradale, il problema è che tra piste ciclabili che non ci sono, tra strade dissestate, tra tutti i problemi che la viabilità per la bici ha a Firenze, diciamo che il codice stradale, diciamo, fondamentalmente il codice della strada non è pensato per le biciclette, è autocentrico, come si dice, no? Pensa solo alle macchine, pensa pedoni e biciclette sono qualcosa di totalmente secondario, anzi quasi non ci dovrebbero essere, e i risultati sono questi. Il risultato sì è questo, sì. E i risultati sono che ogni tanto ci scappa il morto, okay, e spesso ci scappano i feriti, naturalmente. Le promesse sono state tante, devo essere sincero, io ho sentito spesso i nostri amici politici promettere di qua, promettere di là, di solito promettono qualche pezzettino di pista ciclabile, qualche rastrelliera, e poi di rado arrivano. Oh, la ciclopolitana, te la ricordi la ciclopolitana? La bicipolitana. La bicipolitana. Tra l'altro non tutti sono d'accordo sulle piste ciclabili, non so se avevate visto quella... diverse iniziative ci arriveremo. Non volevo anticipare nulla. No, è uno dei temi, che tratteremo. Sì, è una cosa di cui parleremo dopo. Sì, è vero, la bicipolitana, la mitica bicipolitana, che fine ha fatto? Chi lo sa? Chissà, caduta in un cassetto. Grande idea che poi però appunto scompare. Cioè, il dubbio qual è? Il dubbio è che si facciano questi annunci per pura immagine. Ma secondo me, guarda, torneranno fuori, perché ci si avvicina alle elezioni piano piano, a maggio, e quindi vedrai che di solito la propaganda sui ciclisti è quella proprio dell'ultimo minuto, va bene? Quindi due giorni prima, una settimana prima, allora viene fuori con la giratina, verrà fuori con la giratina e magari la promessina. Io penso che andrà così, cioè, sono quasi pronto a scommetterci. Vai. Comunque, tornando ai riders, Ricordiamo nuovamente l'appuntamento del mercoledì, dell'assemblea del mercoledì in Piazza dei Ciompi dopo il turno. Dopo il turno, quindi dalle 10:30 in poi. Non settimana prossima. No, settimana prossima sarà di martedì. Poi ancora, diciamo, Roof è un po' in evoluzione. Quindi sì, ci diamo delle date, però possono essere modificate in corso d'opera, perché comunque ci organizziamo di volta in volta, ecco. Quindi non abbiamo una data, cioè abbiamo una data, diciamo, ufficiale per l'assemblea, che stia il mercoledì, non è neanche a cadenza settimanale, ma è ogni due settimane per il momento, e si spera che diventi a cadenza settimanale. Però niente, ecco, non è nulla di ufficiale, tutto può essere modificato in corso d'opera per il momento. Benissimo. L'ultima cosa che ti volevo chiedere: avete una pagina o un contatto, certo, dove vi si può contattare? Cioè, abbiamo una pagina Facebook, Riders Union Firenze, si chiama come noi, Roof. Quindi si può scrivere messaggi alla pagina. Sì. Con quella pagina immagino che voi comunichiate, e quindi sì, ci siamo messi anche in contatto con altre realtà, per esempio con i Riders bolognesi, con quelli di Milano, che ci hanno detto forza ragazzi, bel progetto. Sì. Bene, ho sentito parlare di appuntamenti, di appuntamenti europei, ma avremo modo di parlarne forse questa prima sera. Stasera invece, come Roof, partecipiamo alla Critical Mass. Grande. Niente, c'è piaciuto cogliere la palla al balzo, tra l'altro anche il compleanno, perché noi in questo momento abbiamo bisogno di darci visibilità. La gente deve sapere, e anche e soprattutto i Riders devono sapere, che esiste Roof a Firenze, cioè una Riders Union, un collettivo di ciclofattorini. Bene, l'ultima domanda te la vorrei fare, ma avete l'assemblea, la prossima assemblea, quali sono i punti? Allora, no, vabbè, sai, i punti quali sono? Allora, innanzitutto bisognerà decidere come sfruttare tutta una serie di materiale che abbiamo recuperato, tra cui carcasse di bicicletta. Quindi il punto principale, diciamo, è la ciclofficina per la prossima assemblea. E poi vi sono anche altri punti, però è un po' prematuro annunciarli adesso, perché vanno prima discussi tra di noi. Quindi diciamo ciclofficina. Benissimo, e vai. Invito a partecipare allora. Preparazione all'inverno. Benissimo, allora a risentirci di nuovo con i Riders Union Firenze, ancora ai microfoni di Radio Wombat. Ciao. Ciao. Io vi manderei un pezzo. Ah, un bel pezzaccio. A questo punto è Out of Time Man. Yeah. Baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to try to be. Now it's half past. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Tornano in regia Cobaldo e Denever con eccoci. C'è chi sbombarda in sottofondo. Ho scelto un sottofondo così di impeto, perché ci hanno fatto incazzare. Perché ci hanno fatto incazzare, decisamente. Ci hanno decisamente fatto incazzare. Chi ci ha fatto incazzare, per l'esattezza? È un assessore della Lega. Strano, guarda. Di solito ma noi ci siamo mai. No, ma noi si va d'accordo con quelli della Lega, Sì, proprio. Con gli assessori in generale si va d'accordo. Poi con quelli della Lega in particolare. Che ci possiamo stravediamo. Che ci possiamo fare? Ci stravediamo. E cos'è successo? Intanto abbiamo un'intervista. Forse abbiamo un'intervista, non è nostra, No. Non è nostra, però i nostri potenti mezzi, però. Però ce la spariamo. I richiedenti asilo non hanno la macchina, quindi vanno a piedi. Lei dice, scusi, allora, che chi va in bicicletta a piedi sono immigrati, e se il comune vuole ampliare le strade lo fanno apposta per favorire gli immigrati e i richiedenti asilo? Sembra. E qui ci è venuta la bava alla bocca. Eh sì. Occhi iniettati di sangue. È così. Perché in queste parole cosa c'è? Quali sono i sottintesi? Chi usa la bici, uno, prima di tutto, è un poveraccio, è una persona trascurabile. Chi usa la bici, fondamentalmente, è qualcuno che commette un'illegalità a priori, e chi usa la bici non ha diritto a stare in sicurezza, fondamentalmente. E quindi questo è, o almeno a meno diritto di altri, intanto. A meno diritto di altri, sì, a qualcuno di trascurabile. Il sottinteso qual è? Poi, perché non abbiamo sentito l'altra parte dell'intervista, dove si diceva chi lavora usa la macchina. Quelli che cazzeggiano, il sottinteso qual è? Quelli che cazzeggiano possono andare anche in bici. Ed è quello che ci succede tutti i giorni, che mentre andiamo al lavoro in bici, qualcuno ci urla: vai a lavorare, levati dalla strada. È così, stai perdendo tempo quando vai in bicicletta. Non sanno che sono loro a perdere tempo incolonnati nel traffico, mentre noi con la bici arriviamo molto prima di loro e molto meno stressati e schizzati. E l'altra cosa che viene detta nell'intervista è che chi ha i bambini non usa la bici perché la bici è pericolosa. E su questo, sulla questione della sicurezza, è ovvio che se non fai le infrastrutture perché hai paura dell'invasione, che vengano utilizzate da un'invasione di così, come li definiscono loro, pericolosissimi immigrati, Eccola, ci siamo, gli immigrati. Comunque, tutti, una cosa si può dire, sono sti cazzi, sono veramente monotoni. Sì, perché, cioè, veramente, cioè, ce l'hanno in modo spudorato con i migranti, questa cosa si è capita, ce l'hanno tendenzialmente con i ciclisti, e questa cosa si è capita, cioè se metti un migrante in bicicletta è proprio l'apoteosi, veramente, quindi noi l'unica cosa che possiamo fare è tingerci tutti di nero e andare in bicicletta anche o noi, vestire tutti di nero. O vestire tutti di nero. Come ci succede? Come ci succede, fra l'altro. Ma questo per la costruzione di una pista ciclabile a Prato, secondo l'assessora, questa pista ciclabile avrebbe tolto veramente posti alle macchine che dovrebbero stare lì invece parcheggiate, per dare spazio appunto a un progetto che chi se ne frega dei migranti. Ma questa cosa non succede solo, a Prato, perché anche a Firenze dei belli imbusti, tipo quelli di Prato, si sta parlando di Casa G, Destra Identitaria e Fratelli d'Italia, sono usciti con un comunicato qualche tempo fa che fa così, io vi leggo il titolo: no alla pista ciclabile in via Scipione a Mirato. Esatto, sì, e loro non sono d'accordo alla costruzione di una pista ciclabile in via Scipione a Mirato, che è una cosa estremamente necessaria, fra l'altro, perché quella zona lì è... vi sono problemi di viabilità. Sì, chi viene diciamo da Borgo La Croce e Piazza Beccaria e vorrebbe continuare dritto verso sud, verso Firenze Sud, o è costretto a fare via Gioberti al contrario, oppure appunto fare il giro, prendere via Scipione a Mirato e fare tutta via Scipione Ammirato, che purtroppo però le macchine su via Scipione Ammirato corrono abbastanza. Sì, fra l'altro è quella zona dove tanto si lamentano per il fatto che andiamo contromano in via Gioberti, e quindi grazie al cazzo, cioè se non ci sono altri posti da dove passare è chiaro che noi scegliamo il più comodo, quindi via Scipione Ammirato potrebbe essere una valida alternativa, però no, se ci fosse lì, una cicla anche lì, appunto loro sostengono che non si può togliere una corsia alle auto parcheggiate, è già un problema, insomma, vabbè, ma queste sono robe vecchie cent'anni. È indicativo come cerchino di cavalcare alla disperata tutti i possibili malumori della persona. Assolutamente. Non ci scordiamo che tutti questi schieramenti sono in direzione, strizzano l'occhio alle prossime elezioni, e quindi ognuno deve sparare le sue cartucce. Noi le cartucce, le spariamo anche noi, le spariamo tutti i giorni quando si scende sui pedali. Vogliamo sentire un po', magari dopo il pezzaccio, vogliamo sentire un po' gli amici di Prato che ne pensano di questa novità. Assolutamente, facciamo che chiediamo ai nostri compagni pratesi della Critical Mass, forse magari qualcuno ci sarà anche ora, anche stasera alla Critical Mass, sentiamo un po' la situazione a Prato come va, perché noi vogliamo le voci vere. E fra l'altro a Prato è nata una critical mass da poco tempo, e noi insomma stiamo cercando di sostenerla, ma ecco a noi. Sì, ci stai ascoltando, grandioso. Allora un attimo che facciamo la magia del collegamento radio. Eccoci. E niente, abbiamo anticipato un po' quanto è successo a Prato e di quelle dichiarazioni, ma sappiamo che c'è stata una bella reazione da più parti. Raccontaci un po', Masser numero uno di Prato, dici tutto. Probabilmente non ci sente. Non ci sente più? Chissà, prova un pochino. Segretaria provinciale della Lega di Prato. Non abbiamo capito, ci siamo persi l'inizio. Ci siamo persi l'inizio, potresti ripetere? Ah, mi sentite? Sì, adesso ci sentiamo, eccoci. No, dicevo che quelli della Lega, nella persona poi della loro segretaria provinciale, che si è finita poi su tutti i quotidiani nazionali, si è resa conto un po' da sola di aver detto una bella minchiata e diciamo, se si sono tirati la zappa sui piedi da soli, fortunatamente, nel senso che c'è stata una bella reazione mediatica, per fortuna, perché le dichiarazioni sono state fatte, sono state al limite dell'ossessione, dell'idiozia e poi del razzismo. Oltre al limite, direi. Più esplicito, ecco. Quindi, sì, c'è stata una bella reazione da diversi fronti. C'è questa osservazione su tale fatto che i ciclisti siano solo migranti, spacciatori, purtroppo si effeggia molto tra tante persone, tra tanti fratesi, per cui anche come Critica al Mazzo ci stiamo muovendo nel nostro prossimo giro di martedì. Stiamo pensando di dare un segno anche noi, di fare una pedalata antirazzista in collaborazione con altre associazioni, altri movimenti del territorio. Bene, benissimo. Ma questa pista ciclabile serve oppure no? Questa pista ciclabile serve oppure no? Faccio da ponte. la questione è un po'... Allora, diciamo, c'è una pista ciclabile che corre parallela a quel viale ed è sul fiume, sul Bisenzio, che è una delle storiche piste ciclabili di Prato, nate non con scopo di spostare le persone nei tragitti quotidiani, ma con uno scopo ricreativo. Da ciclista dico che sì, serve per creare prima di tutto per mettere in sicurezza chi comunque si muove in bicicletta su quel viale, che non necessariamente arriva su percorsi che lo portano sul fiume. Serve per creare una rete interna alla città che prima o poi ci dovrà essere, per cui, e deve passare anche in quel viale, che è una grossa linea di comunicazione. Per cui, a dispetto del fatto che ci sia già una ciclabile che per un certo tratto corre parallelamente a quel viale, siamo molti a pensare che sì, serva lo stesso e che debba essere separata dalle auto e anche dal marciapiede e non ciclopedonale come l'amministrazione la vorrebbe. Sì, anche perché quando le fanno ciclopedonali, che sono quanto di peggio possa essere, esatto, perché pericolose esatto. Per i pedoni e per i ciclisti. Esattamente, sì. Purtroppo l'amministrazione attuale di Prato, che ha fatto anche un grosso progetto in quanto a rete di piste ciclabili che si proietta avanti nei prossimi anni, però si è impiantata su queste ciclopedonali, per cui tutte le piste ciclabili, alcune di recente realizzazione e quelle prossime, sono tutte ciclopedonali, per cui ci stiamo un po' inserendo nel dibattito. Sanno anche loro benissimo che non funzioneranno, lo fanno perché non vogliono inasprire il conflitto con la cittadinanza andando a toccare i parcheggi e vogliono addolcire un po' la pillola. Esattamente, perché poi alla fine il risultato è che o le ciclabili si fanno dove non danno fastidio, vedi argini dei fiumi, che però non servono a nessuno, di sicuro a chi va al lavoro credo in pochi utilizzino l'argine del fiume per andare al lavoro. Questa mentalità della pista ciclabile che serve solo a scopo ricreativo la domenica e basta, e non per andare al lavoro tutte le mattine, è sempre questo scotto che paghiamo. E poi quando le fanno in città, le fanno ciclopedonali, che noi a Firenze ne abbiamo un po' di... ne abbiamo sperimentate un po' di queste problematiche, rischiando un po'. E quindi come massa vi state facendo sentire e avete proposto appunto una sede separata, dicevi. Sì, diciamo che poi c'è stato un dibattito molto acceso intorno alla situazione di questo viale, che è stata anche un po', come dire, molto, c'è stato molti personaggi che non hanno reso possibile la discussione, per cui, come dire, noi ci siamo... Sì, perché volevamo farci sentire per portare una voce contraria al ciclo pedonale, poi ci siamo ritrovati a difendere a sola tratta questo progetto, perché ci siamo ritrovati a confrontarci con fascisti o razzisti, per cui la discussione anche una ciclabile diventa un argomento di lotta, perché è stata strumentalizzata politicamente. Io credo sia il rischio, sia appunto la strumentalizzazione, sia appunto da parte dei fascisti, delle destre varie, Lega e compagnia bella, ma il rischio è anche che venga strumentalizzata anche da appunto da chi ovviamente si trova a amministrare, che è il PD, che di sicuro non è infatti, il massimo, anche lui. No, infatti quello che noi ci teniamo nel ruolo che stiamo cercando di avere in questa cosa è che non vogliamo santificare l'amministrazione come loro un po' si stanno presentando come paladini della mobilità sostenibile, perché ecco, si sono svegliati ora. Si svegliano in questi punti. Ovviamente c'è un interesse che può essere cui possono partecipare, ci sta a cuore e faccio sentire, ma in questo no, non vogliamo assolutamente spingere l'amministrazione come i grandi sostenitori della mobilità in bicicletta, come un po' per reazione alle dichiarazioni della Lega è stato fatto da diverse parti. Sì, infatti. Si ammantano di grande ciclismo e ambientalismo solo quando conviene a loro. Quando stanno per arrivare i voti. Quando arrivano i voti, dice Bricco. Diciamo. Va bene, grande Master Pratese. Salutaci tutti i nostri compagni della Massa Pratese, che questa volta sarà martedì prossimo. Quindi martedì sera. Speriamo, noi festeggiamo stasera invece. Abbiamo alcuni che ci saranno ormai arrivati. C'è una delegazione. Erano un viaggio in bici da Prato. Per cui allora li aspettiamo. Noi finiamo qui e corriamo anche noi a pedalare. Sì. Allora un abbraccio e buona... Conoscerete perché è un cargo bike, per cui... Bella, grandi. Bellissimo. Un abbraccio e buona pedalata. Grazie ciao. A voi, ciao. A voi. Ciao, buon compleanno e buona festa. Ciao, grazie, ciao. E li avete sentiti, compagni pratesi? Fortissimi, compagni pratesi. Dicevo, fortissimi compagni pratesi. Sono ripartiti con questa rete al Mass Prato, erano una manciata di persone, ma sono attivissimi e stanno portando avanti veramente un sacco di idee, come abbiamo potuto sentire. Sono decisi, vero Denver? Hanno parecchia energia, hanno avuto un sacco, anzi andate sulla loro pagina, se avete Facebook, andate sulla loro pagina Facebook, è il mezzo che hanno scelto per comunicare, e per la settimana della mobilità in bici hanno deciso di fare una cosa molto bella, cioè riprendere ogni giorno faceva un video mentre andava al lavoro in bici, e quindi hanno messo poi tutti assieme questi filmati e è venuta una cosa davvero bella. Sì, penso di averlo visto, sai, questa cosa sono carino, parecchio, sì sono carichi, hanno un sacco di voglia di fare. Allora senti, io manderei un pezzo prima di affrontare le ultime questioni. Certo. Dai, rilassiamoci un pezzo, vai. Questo forse l'abbiamo già mandata. Abbondiamo allora. Yeah. Ella. Eccoci. Coglioni. E allora ci abbiamo preso gusto con gli interventi telefonici. Ci abbiamo preso gusto, sì. Durante il pezzo non abbiamo potuto resistere e abbiamo chiamato un altro compagno. Sì. Questa volta Fiorentino, della Rita Mass Fiorentina. E ve lo passiamo così. Ora, facciamo anche di nuovo il mitico collegamento audio. E... eccoci. Ci dovresti sentire. Ci senti? Viva voce. Viva voce, ci senti? Eccola. Ci senti? Pronto, pronto, pronto. Sì, eccoci. Ci Eccolo. Senti? Eccoci qua. Pronto, mi sentite? Io mi sento. Benissimo, eccoci, abbiamo potentissimi mezzi. Allora, caro Masters Fiorentino, com'è la situazione, questa massa del buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Le ascoltatrici La situazione qui, anche le ascoltatrici, sì, scusatemi. la situazione qui è molto compatta, nel senso che c'è un mercatino in piazza Santissima Annunziata e quindi siamo tutti annicchiati sulle scalinate da una piazza via. Molto partecipata, c'è un sacco di gente che è mascherata, ci sono anche i ragazzi della RUF, la Riders Junior Firenze. Sì, sì. E avevamo siamo in attesa della... Avevamo un Riders qui proprio, che stava venendo lì. Quindi, ah, ottimo, probabilmente l'abbiamo intercettato. Sì, sì. E, quindi ci si aspetta una bella massa partecipata. Come, scusa? Una bella massa partecipata in maschera. Dove si finisce stasera? La massa stasera finirà il percorso al CPA, dove ci aspetterà una cena sociale a seguire un concerto jazz. È un giorno speciale per oggi. Festeggiare il 16° compleanno della massa, cade in ottobre, e se si riesce a partire in tempo arriveremo anche in tempo, si spera. C'è più o meno centinaio di persone. Ci stai invitando a chiudere il telefono, quindi? No, assolutamente no. Però a breve sì, dovremo smuovere, come, perché la massa è difficile da far partire come è difficile da far fermare. Bene, bene. Allora via, ti lasciamo ai tuoi impegni e... No, una cosa invece una cosa va detta, perché il 27 anche c'è un appuntamento imperdibile. Sì, esatto, parlaci un po' dell'appuntamento del 27 anche. Il 27, sabato 27, sempre al CPA, si svolgerà la seconda asta di biciclette recuperate presso la Ciclofficina Popolare Brugola Rossa. Alle 6:30 ci saranno in offerta, diciamo, 10 biciclette rimesse a posto dai meccanici della Brugola Rossa con prezzi popolarissimi, base d'asta bassissime. 80 euro. Quindi, come? 80, sì, 80 euro. 70 euro, 80 euro, di Renzi. A seconda se c'è una o due ruote. E ovviamente sono tutti invitati a partecipare. Se qualcuno avesse bisogno di una bicicletta di sport o proprio non ce l'ha, così potrebbe venire anche la Critical Mass del mese prossimo. Benissimo. Dai, allora ti lasciamo alla massa e ci vediamo in massa. Un abbraccio. Beh, ciao. Un abbraccio, buona pedalata. Ciao a tutti. Ciao. L'avete sentito, la Critical Mass Firenze sta per partire, è proprio veramente ora, in teoria, anzi dovrebbe essere partita da... esattamente tre minuti. Da tre minuti, e quindi... Ma l'abbiamo ritardata noi. Noi siamo stati capaci di ritardare la partenza della massa per questa volta. Io intanto facciamo che rimetto un sottofondo, il sottofondo che sentivamo prima, Spendi, di Rino Gaetano. Critical Mass, 12° compleanno. Non 16° è... 16° compleanno. È diventata adolescenza. Potrebbe cominciare una fase più ribelle del solito. Dovrebbe. Questa è l'età. Dovrebbe essere più ribelle. E non è l'unica manifestazione sulle due ruote che abbiamo visto a Firenze nell'ultimo tempi. Un'altra molto più ribelle. Ma questa è veramente un uragano, uno tsunami nelle strade fiorentine. Allerta arancione. C'è stata un'allerta meteo arancione giusto quando era? Non me la ricordo più. Due o tre settimane fa, mi sembra. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di, come prima parlavamo della bicipolitana, quindi ennesima trovata di immagine vuota e senza poi nessuna ricaduta pratica per chi va in bici a Firenze. Stiamo parlando di Hollandiamo, che è stata questa manifestazione che le associazioni, in particolare la FIAB Fiorentina, in collaborazione con il consolato, l'ambasciata olandese a Firenze e in collaborazione con il comune, ha fatto questa manifestazione di sensibilizzazione all'utilizzo della bici, fondamentalmente una grande pedalata in città con numeri importanti. Se si vede il video saranno state 200 persone. Di queste, a occhio, da come pedalano in città, avevano preso la bici per la prima volta quel giorno. Abbiamo visto un po' di... E appunto è stata fondamentalmente una passerella politica per Nardella, visto che le elezioni si avvicinano. Eh certo, si avvicinano le elezioni. Era realizzata tra l'altro in collaborazione, se non mi sbaglio, con il consolato olandese. Esatto, il consolato olandese. E era tutte queste... Quindi, questa massa di pavoneggiamento internazionale. Sì, sì, veramente. Fra l'altro arancione, guarda un po' il colore della Mobike, ma forse qui si chiude no. Un cerchio. Complottista, sei sono un po' complottista, è vero, però sono un complottista, ma mi è arrivata una notizia, è uscita una notizia sui giornali che Firenze è la seconda città più smart d'Italia dopo Milano. E se non era smart? E quindi questa cosa mi riempie di gioia e mi fa fare pensieri strani. Sì, quando ci arrotano poi fammi sapere quanto siamo smart. Vero, ma splat siamo. Siamo splat. Smart. Bene, Denever, direi che abbiamo esaurito gli argomenti. Sì. Ricordiamo ancora, la critica al massimo si sta svolgendo in questo esatto istante, stanno veramente partendo. Se siete in tempo, precipitatevi, finirà il CPA con una cena sociale, ma l'altro appuntamento è sempre al CPA presso la ciclofficina Brugola Rossa, sabato 27 alle 18.30. Alle 18.30 ci sarà un'asta con biciclette a prezzi popolari, quindi per chi ha bisogno di una bicicletta ci sarà una bicicletta recuperata dalle sapienti mani dei meccanici della Brugola Rossa. Bene, detto questo, io, se sei d'accordo, Nenever, manderei un ultimo pezzo e poi ciao. E poi ce ne andiamo alla massa. Sì, a pedalare. In punta di pedali lo risentirete fra due settimane, sempre il giovedì, su Radio Wombat 1359 wombat.blogs.org dalle 18.30 alle 19.30, sperando in un minor numero di problemi tecnici. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma spero di tornare senza la tosse, fra l'altro. C'ha la tosse, vi assicuro che ha la tosse da un mese. No, da un mese, veramente, da un mese. Io non so più come fare, ma... La maledizione che devo niente. Delle speaker. Never. Vai. A giovedì prossimo, a prossimo. Giovedì. Ciao. Ciao a tutti. Wombat. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child.